Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ricercatori dell'Università Cattolica Campus di Roma scovano nell'intestino un marcatore capace di predire l'evoluzione e la gravità del Covid. Ne parliamo con la responsabile dello studio, la professoressa Veronica Oietti, gastroenterologo della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. Come ha detto lei, abbiamo voluto ricercare la calprotectina fecale, che è una proteina che possiamo trovare nelle feci e che è un marcatore dell'infiammazione dell'intestino, ed abbiamo voluto vedere se elevati livelli di questa proteina, che si può ricercare molto facilmente anche in tutti i laboratori, correla poi con la gravità dell'infezione da Covid-19, e abbiamo sorprendentemente scoperto che alti valori di questa calprotectina nelle feci predicono proprio la gravità della polmonite da Covid. Quindi se i pazienti al momento della diagnosi hanno elevati valori di questo marcatore, probabilmente svilupperanno una forma più grave di polmonite da Covid. Il Covid-19 non deve fermare l'allattamento al seno, e questo è l'invito della Settimana Mondiale per l'Allattamento Materno, che è partita ieri e si concluderà il 7 ottobre. È in linea con noi il presidente della Società Italiana di Neonatologia, professor Fabio Mosca. L'allattamento è troppo importante perché un virus, pur cattivo, lo possa fermare, anche perché l'allattamento al seno è un sistema grandioso per proteggere e stimolare le difese dei nostri neonati, quindi fondamentale non sospendere l'allattamento al seno e anzi favorirlo. È stato l'impegno di tutte le neonatologie in Italia per appunto le mamme che hanno partorito in questo periodo, con ovviamente qualche difficoltà in più legata al lockdown, alla difficoltà di essere aiutate da parenti e amici anche durante la degenza negli ospedali, ma certamente i dati ci dicono che siamo riusciti a sostenerla in modo adeguato. Poi c'è stato il problema delle mamme che, fortunatamente un piccolo numero, hanno partorito avendo contratto il coronavirus, e anche lì la bella notizia è che siamo riusciti a convincere tutti, anche la comunità scientifica, che anche le mamme che avevano il Covid attivo al momento della nascita era necessario e utile per il proprio neonato che venisse allattato al seno. Bene, per oggi è tutto. Come ogni giorno vi aspetto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute con le nostre video interviste. Oggi insieme a noi Filippo Ongaro. Con lui parliamo del suo ultimo libro, Forte come l'acqua, i 6 passi per diventare potente e adattabile. Che dire, non mancate. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.